avec son équipe. Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno, bentornati alla finestra sul cortile. Si fa presto a dire esperto. Cosa vuol dire essere esperti o specialisti di qualche particolare settore della conoscenza? I cosiddetti esperti super tecnici prendono tante cantonate. A volte l'eccesso di specialismo può provocare disastri. Basti pensare alla guerra in Iraq o alla grande crisi finanziaria, alla marea nera del Golfo del Messico. E allora perché non aprire le porte delle stanze decisionali e coinvolgere più persone possibili nelle decisioni che riguardano tutti, nelle scelte di interesse collettivo? Quella che si usa a definire spregiativamente la massa, il popolo bue, non è una moltitudine di ignoranti, ma nasconde un'infinità di talenti, di esperienze, di know-how che si possono utilizzare. Ne parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il menù di oggi. Inghilterra, la folla intelligente, è l'era del crowdsourcing. Germania, invecchiando, ci si addolcisce. Vale anche per le religioni, Islam compreso. Visti dagli altri, Barcellona, i fantasmi di Eduardo in salsa catalana. America, impronte digitali e test del DNA per distinguere un'opera d'arte da un falso. Spagna, un ciclo di incontri per scoprire il lato nascosto del Prado. Ti racconto una storia. Una volta c'era un intellettuale, Ponzio Pilato. Ponzio Pilato pensò che il popolo fosse pronto per la democrazia, così prese due che aveva appena arrestato, li portò davanti al popolo e disse: popolo, democrazia, scegli tu, chi liberiamo tra questo e quest'altro? Il popolo è un bambino, il popolo che ne sa? Il popolo tosava le pecore, mungeva le vacche, zappava l'orto, il popolo. Allora Ponzio Pilato, che era proprio in vena di democrazia, disse: popolo, ti do un aiutino. Alla mia sinistra c'è Barabba, alla mia destra c'è Gesù Cristo. Popolo, chi vuoi liberare? Ma il popolo è un bambino. Il popolo non è pronto, che ne sa il popolo? Il popolo guarda la partita, il popolo che ne sa? Va al supermercato. Allora Ponzio Pilato, che era intellettuale ed era in vena di democrazia, gli disse: popolo, ti do un altro aiutino. Questo qui, Barabba, è un ladro di polli. Quest'altro invece, Gesù Cristo, è Dio sceso in terra. Popolo, chi vuoi liberare? E il popolo disse: Barabba. Era un brano di un monologo dell'attore Ascanio Celestini che in qualche maniera commentava la incapacità del popolo di prendere decisioni assennate, facendo riferimento al famoso episodio evangelico di Ponzio Pilato. Ma è proprio vero che il popolo è bue, come si usa dire? E forse invece le masse, la folla, le crowds, come le chiamano gli inglesi, hanno una loro wisdom che in determinati frangenti può essere sfruttata. Tant'è vero che adesso si sta sviluppando tutta una branca di, chiamiamola, psicologia cognitiva o di scienza politica, se volete, o di tecnica delle decisioni, che si chiama crowdsourcing, collaborazione di massa. Ne parla sul magazine della BBC Tom De Castella in un articolo intitolato per l'appunto Should we trust the wisdom of crowds? Dobbiamo dare retta alla saggezza delle folle. Una volta si diceva via dalla pazza folla, invece no, perché per esempio nel caso della BP di fronte all'emergenza nel Golfo del Messico, questa grande multinazionale ha proprio chiesto aiuto al pubblico, alla cittadinanza, per ottenere dei suggerimenti su come catturare questa gigantesca falla, e fino adesso ha ricevuto ben 20.000 suggerimenti. E anche il governo britannico sta usando una strategia analoga. Il vice premier Nick Clegg ha chiesto ai cittadini di Sua Maestà britannica di segnalare le leggi silly, le leggi stupide che andrebbero abrogate. Forse è un suggerimento che potrebbe seguire anche il nostro ministro per la semplificazione Calderoli. Invece di fare dei roghi simbolici, meglio forse rivolgersi ai cittadini. Ma questo sistema del crowdsourcing ha avuto delle applicazioni, si legge in questo articolo, anche da parte di società, per esempio una società mineraria che non riusciva più a trovare l'oro in Canada, si è rivolta ha messo online i dati geologici, ha chiesto aiuto e promettendo un premio in denaro di $500.000, e alla fine sono riusciti a trovare un oro per un valore di $3 miliardi. Quindi, insomma, con il ricorso alla consulenza diffusa, diciamo, delle folle, si riescono a ottenere dei risultati importanti in campo politico o nel campo del business o in campo anche, speriamo, ambientale. Ma sentiamo che cosa ha da dire in proposito il nostro ospite, che salutiamo, il professor Paolo Legrenzi, psicologo cognitivo e autore di importanti studi sulla creatività e sui processi decisionali. Cosa ne dice, professore, di questo crowdsourcing? È una cosa che funziona? È una cosa che a certe condizioni funziona, ed è una storia molto interessante. Anche l'Economist è tornato più volte su questo problema, che è un problema che ha radici molto lontane in Gran Bretagna. Racconto un brevissimo, diciamo, episodio che si riferisce a più di un secolo fa, quando Galton, un grande studioso non solo di tecniche di misura, non solo un grande, diciamo, psicologo, il primo grande, un grande anche statistico, ormai molto anziano, ebbe questa idea da statistico. Nel suo paesino a Plymouth c'era un gioco, una fiera, in cui bisognava stimare il peso di un animale, quello che aveva vinto il concorso una volta che fosse macellato. Si potrebbe pensare che questa stima la fanno meglio i macellai, e poi le mogli macellai, e poi chi lavora come macellai. Quello che lui scoperse, mettendo insieme tutti i biglietti, adesso la faccio breve, certo, è che in realtà la stima migliore la si faceva mettendo insieme tutti quelli del villaggio, e cioè il dato ponderato medio si avvicinava di più alla risposta esatta, cioè sommando ignoranza della folla, in realtà ci si approssimava di più alla risposta esatta. Per lui fu una folgorazione, perché questo Galton, cugino di Darwin, era un elitista, certo, senso politico, certo, e questo, il quale pensava che solo le classi dirigenti che dovessero fare scelte politiche fossero queste, eccetera. Infatti, quindi era una specie di nemesi storica, perché, insomma, altro perché, che popolo bue, no? Sì, assolutamente no, anzi il popolo, più che lei allargava il popolo in quanto bue, qui un gioco di parole, visto che devono stimare il peso di un bue, in realtà ci si vede una risposta esatta, e questo poi ha avuto moltissime applicazioni in finanza, perché come aveva intuito Keynes nel 1936, la risposta esatta non è risposta esatta secondo gli esperti, che spesso sbagliano, ma secondo le stime che gli inesperti, la folla, fa, che è quella che sulla base dell'aspettativa altrui determina i prezzi sui mercati finanziari. Ecco, quindi insomma si sfruttano in qualche modo delle competenze diffuse, ma oltre a questo... Come nel caso del Canada. Cioè, ecco, appunto. Si suppone che lì che girano per i trapper, le persone, territori amplissimi, molto diffusi, territori in cui è difficile fare le ricerche minerali, la saggezza popolare di chi abita in un certo posto può segnalare all'azienda mineraria dove è più probabile che ci sia del minerale, un po' come i funghi questo. Insomma, i cercatori, si ritorna alla stagione dei cercatori, certo, d'oro, è solo che adesso si fanno più che altro scoperte nel campo della conoscenza, e per esempio un esempio di questi è naturalmente Wikipedia, insomma, no? Che è una forma di collaborazione online che funziona e che ci dà, insomma, un nuovo tipo di enciclopedia con tutti i suoi limiti e i suoi pregi. Noi ringraziamo il professor Legrenzi, buona domenica, grazie a presto. A voi. Grazie, buona domenica. Come mai l'Islam produce fanatici? Siamo in tanti a porci questa domanda da quando i terroristi di Al-Qaeda hanno abbattuto le torri del World Trade Center. Perché i motivi per spiegare le azioni suicide e omicide di Atta e dei suoi camerati sono tanti, ma su tutti sembra prevalere l'opinione che la violenza sia congenita in qualche modo alla religione musulmana. E invece servirebbe un po' di autocritica, ricorda un articolo sul giornale svizzero Neue Zürcher Zeitung, perché anche le religioni europee, a ben guardare, hanno parecchi scheletri negli armadi. Tra i motivi con cui si cerca di spiegare la violenza in nome di Allah ce n'è uno ancora troppo poco studiato: la giovane età della religione islamica rispetto alle fedi cristiane, che la rende più impetuosa e meno accomodante. Come dimenticare, infatti, che solo qualche secolo fa, quando il cristianesimo era più giovane e aggressivo, l'Inquisizione comminava pene capitali, eppure i calvinisti di tanto in tanto avevano la mano pesante coi loro nemici? Con l'età si diventa più saggi, e questo vale anche per le religioni. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani famosi all'estero ci porta questa domenica a Barcellona, dove è in scena Questi fantasmi, classico di Eduardo De Filippo, con attori catalani e napoletani. E tutti conosciamo questa commedia di De Filippo, che pare riscuota grande successo anche in Spagna, anche se, scrive Marcos Ordóñez sul País, c'è qualche problema nelle contaminazioni tra il dialetto napoletano e la lingua catalana. Dice che questo travestitismo idiomatico frena un po' la recitazione, rallenta la fluidità del parlato anche di bravi attori come Toni Laudadio. Insomma, come succede con la cucina fusion, le ibridazioni non riescono sempre, e anche Eduardo in salsa catalana può non piacere a tutti i palati. La finestra sul cortile. Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. L'inconfondibile voce di Nat King Cole in Mona Lisa, una canzone dedicata per l'appunto al celebre capolavoro di Leonardo e all'enigma del sorriso della donna rappresentata in questa tela. E questa musica ci introduce al tema della nostra trasmissione, che è proprio l'interpretazione dei dipinti. Prendiamo spunto da un articolo, un lungo articolo di David Gran sul settimanale americano The New Yorker, intitolato The Mark of a Masterpiece, l'impronta di un capolavoro, in cui si parla per l'appunto di un caso dubbio di attribuzione di un disegno di Leonardo da Vinci da parte di un esperto inglese, Martin Kemp, che soprattutto dopo la pubblicazione del il successo del Codice da Vinci di Dan Brown, del libro e poi del film, naturalmente è stato subissato di disegni, dubbi e di patacche, di falsi da tutto il mondo, e un bel giorno gli è arrivato su internet, via internet, quindi in formato digitale, l'immagine di un disegno su carta patinata e il profilo di una fanciulla che lui ribattezzò la bella principessa, e che poteva, essendo stato disegnato secondo lui da un mancino, poteva essere appunto opera di Leonardo, che disegnava con la mano sinistra. Ma di lì comincia una lunga ricerca per stabilire la identità dell'autore misterioso di questo disegno, e che porta Kemp a un personaggio curioso, un certo canadese, un esperto forense, tale Peter Paul Biro, un bel nome, Biro, come la penna, il quale usa una metodologia per scoprire le attribuzioni dei dipinti, delle opere d'arte, usando le impronte digitali, quindi non la mano invisibile dell'artista, ma la sua mano fisica. Ecco, e poi come è andata a finire la vicenda, è che poi Martin Kemp è arrivato alla certezza assoluta che si trattasse di un Leonardo autentico. Ma sarà andata proprio così? Lo chiediamo a Marco Carminati, che abbiamo in linea, che ringraziamo di essere con noi. Ciao Marco, colleghi, avendo lavorato insieme per molti anni al Domenicale del Sole, di cui lui è responsabile delle pagine dell'arte, tra l'altro è autore anche di un bel libro che consiglio a tutti, Il David in carrozza, Longanesi, che racconta le avventure di molte opere d'arte. Ecco, tu Marco sei stato tra l'altro diciamo allievo, possiamo dire così, di un leggendario critico d'arte, Federico Zeri, che aveva un fiuto straordinario per scoprire gli autentici e distinguerli dai falsi. Sì, Zeri aveva una metodologia, e devo dire la verità, delle impronte digitali non mi ha mai parlato. Ecco. Però non è innovato. Non gli servivano, non gli servivano. No, di questo aspetto non ho mai parlato, anche se io direi, ritengo che non sia una cosa improbabile che si possano riscontrare nei dipinti le impronte degli artisti, perché noi sappiamo perfettamente che per sfumare, per arrivare a certi dettagli, eccetera, potevano usare le dita e imprimere le loro impronte. Il problema è che devono averle anche impresse sull'inchiostro da qualche altra parte per poter avere un riscontro oggettivo. Io non so dove ci siano, in che casellario ci siano le impronte digitali di Leonardo da Vinci. Questo è il punto. Mentre Jackson Pollock, per esempio, che è un altro degli artisti esaminati da questo signor Biro, Pollock, ovviamente essendo un contemporaneo, è più facile. Credo che questo possa valere davvero per l'arte contemporanea, ora, o comunque l'arte moderna, anche gli impressionisti, eccetera. Il vero problema è che questi maestri, in qualche modo, il riconoscimento di queste opere ci è molto più facile rispetto a un'attribuzione di un dipinto di Leonardo, perché sono così vicini nel tempo, ci sono un sacco di documenti e di dettagli che ci possono portare a loro. Invece, ecco, allora come si fa con un antico, insomma, con un maestro? Con un antico bisogna procedere secondo un metodo abbastanza rigido. Intanto bisogna analizzare l'oggetto, quindi il disegno, il dipinto, in modo molto distaccato, quindi senza lasciarsi prendere dalla foga di dover dimostrare a tutti i costi che alla fine si è tratta di un Leonardo, e di guardare intanto lo stato di conservazione. Paradossalmente è il primo dei passi, non ci si occupa subito di capire chi è l'artista, ma di capire se l'opera è in buono stato di conservazione e quindi non è stata troppo alterata dai restauri e dai rifacimenti e quindi è autentica, perché proprio in questa fase, subito, se si fanno delle analisi dettagliate sia di carattere così visivo che anche di carattere fisico con riflettografia, ci si rende conto se l'opera è autentica, perché ci si può imbattere subito in una copia ottocentesca, cosa che può capitare per Leonardo da Vinci, e allora è già il discorso si completa. Se invece si supera questa prima fase, ci sono altre fasi molto interessanti, cioè bisogna cercare di capire l'epoca e l'area geografica. E questo come si fa? Con strumenti? No, si fa con tante esperienze. Intanto ci sono dei dettagli che gli storici dell'arte più allenati conoscono bene. Per esempio, un fondo oro senese e un fondo oro fiorentino, uno lo distingue lontano un chilometro, perché soprattutto se hanno conservato la cuspide, i fiorentini facevano le cuspidi non troppo appuntite, i senesi invece tendevano a farle molto molto appuntite, ed è una costante di questo aspetto, e quindi è abbastanza facile collocare un fondo oro del 300 a Siena o a Firenze, oppure per esempio per la pittura del 600 bisogna girare le tele, e le tele fatte a Napoli, dipinte a Napoli, hanno una trama molto larga che è caratteristica, solo le tele napoletane hanno quel tipo di trama, quindi si riesce a capire paradossalmente, voltando il dipinto, di essere davanti a un quadro del 600 napoletano, perché sì, e così ci sono un'infinità di dettagli secondari, punzoni eccetera, che gli storici appunto che fanno questo lavoro conoscono bene, perché qui sembrano dei maghi guardando le opere identificate, in realtà non fanno altro che applicare queste tipologie di dettagli. Bene, noi ringraziamo Marco Carminati per questa lezione di storia dell'arte e gli auguriamo buona vacanza e a presto. Grazie, a presto. E restiamo in tema di arte e di musei e andiamo a Madrid, dove al Prado è stato tenuto nei giorni scorsi un convegno intitolato El Prado Oculto, la vita segreta del museo, la vita segreta del museo, in qualche maniera potremmo dire il lato nascosto del Prado, cioè il Prado visto dall'altra parte del muro che espone i quadri di Rubens. E in questo convegno hanno parlato i tecnici, gli scienziati, i restauratori, quelli che si occupano della conservazione delle opere d'arte e che hanno spiegato al pubblico in cosa consiste il loro lavoro, perché i musei, che ne pensino certi nostri politici, sono dei luoghi vivi e non dei cimiteri. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia e Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buona domenica a tutti.